Cresciuto pane e rabbia, hai cominciato a maturare l'odio chiuso dentro di una gabbia. Passato in questo luogo ormai comune, si è sparsa voce dopo che l'infanzia aveva perso il suo costume. La gente del quartiere si restava lì in silenzio, conta uno su un milione. Perché stare in questo posto non aveva una ragione, perché quando apriva la sua bocca, sai, faceva divertire le persone. Dopo che ha scoperto la poesia, unisci carta e penna e non si trova l'alchimia. Magari come cerchi di lottare ti ritrovi preda in un safari, stretto tra le mani quel cannone, prega solo che non spari. Sai perché ho perso la mia venere? Spiega come scavi tra ricordi, tra le mani solo cenere. Adesso che sei solo, guarda in basso, cerca di spiccare il volo. Quando non mi fido del mio istinto, fra troppe volte son convinto e dopo scopro che era tutto finto. Quando prendo la mia birra spero di trovare un senso alla canzone, quando poso la mia birra e dopo arrivo a questa conclusione. No, non c'è più posto per me, non ho più voglia di te, non c'è ragione per restare qui a vivere. Non c'è più posto per me, non ho più voglia di te, non c'è ragione per restare qui a scrivere. Nelle nostre prigioni non per forza ci son celle, la rivolta di un ribelle che non vede più le stelle, tra muri di disagio troppo alti. Come scappi se scavalchi poi non salti, spera di aggrapparti ai falchi, poi ti volti verso gli altri. Dove vai? Tornerò per raccontarti un bacio, per salutarti. È inutile essere presente e dopo trascurarti. Nella giungla c'è chi corre tra le urla, c'è chi mente e dopo giura che ha sconfitto la paura, chi la truffa e dopo parte metà oscura. Mi escludo, me ne vado, questa vita che mi chiude, e per questo cerco fiori in mezzo alla palude, dando testate da testardo a chi ha la coda da codardo, chi ha il passato da bastardo. Quando passa fagli largo, è così che mi salvo. La mia città non mi offre nulla, per molti qua è la realtà ma per me fasulla. Alzo le chiappe per riscrivere le mappe, riportarle indietro intatte, corse matte contro il tempo che si ruba, inchiostro che si asciuga, ogni minuto che si sciupa. Progetto il mio piano per la fuga. Non c'è più posto per me, non ho più voglia di te, non c'è ragione per restare qui a vivere. Non c'è più posto per me, tocca fuggire, non c'è ragione per restare qui a scrivere. Tutti quanti tutti i giorni abbiamo il permesso di togliere mattoni dalle nostre prigioni. Tutti quanti tutti i giorni abbiamo il permesso di evadere coi sogni dalle nostre prigioni. Non c'è più posto per me, non ho più voglia di te, non c'è ragione per restare qui a vivere. Non c'è più posto per me, non ho più voglia di te, non c'è ragione per restare qui a scrivere. Ormai sul fango, Zava, scotch e vetro, 2008.